Ore 9:27, sempre di sabato 9 marzo 2024, dopo la breve incursione notturna di qualche ora fa, volevo tornare sulla vicenda del mural di Nemos, lo street artist che avrebbe dovuto partecipare alla chiamata di opere per il nuovo progetto delle residenze artistiche di arte contemporanea al Museo Novecento di Firenze. Qualche giorno fa ho anch'io commentato la vicenda, la riassumo. In un articolo sul Fatto Quotidiano, lo storico Tommaso Montanari riporta la notizia di una vera e propria censura, vale a dire all'artista viene fondamentalmente chiesto, dopo aver visionato l'opera, viene richiesto di cancellarla o di modificarla prima dell'inaugurazione del progetto. Perché? Perché l'opera racconta di una Firenze, diciamo così, schiava di un sistema cultura, di un sistema dell'arte completamente mercificato, completamente succube dalle logiche economiche che in qualche modo lo fanno funzionare, facendo così venir meno il ruolo dell'artista come soggetto libero da qualsiasi tipo di rapporto di forza, diciamo così. E tra l'altro l'articolo riporta, questo è molto importante dirlo, in un virgolettato le parole proprio di Nemos, dell'artista, che racconta appunto la richiesta di cancellazione o di modifica e chiede spiegazioni, cerca soprattutto di capire il perché di questa reazione dell'amministrazione comunale, e la risposta non c'è. L'unica risposta che arriva è quella, diciamo, nel giro di 48 ore, di praticamente tutti gli uffici stampa delle istituzioni coinvolte, da Palazzo Vecchio, quindi dal comune, dal sindaco Nardella, la vice sindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini, al direttore del Museo Novecento, praticamente tutti quanti, come un solo uomo, raccontano un'altra verità, cioè che nessuno ha mai chiesto di censurare l'opera, che infatti verrà regolarmente inaugurata. Ora, è chiaro che noi non abbiamo fatti, non abbiamo prove, l'unica cosa che abbiamo è un articolo di Montanari e un virgolettato di Nemos. Ora, mi pongo la domanda, ma davvero Nemos è disposto a dire una cosa così falsa? Perché se davvero fosse così sarebbe molto grave dal suo punto di vista, ma io non ci voglio credere. Voglio invece, insomma, conoscendo il riflesso dei comunicatori, degli uffici stampa e soprattutto del sistema dell'arte, mi sembra molto più facile che si sia trattato di un dietro front, e quindi mi verrebbe da dire di una specie di pezza che viene messa, perché in realtà viene data una tale visibilità a quell'opera, che già circola, diciamo, in formato digitale, in vari articoli in rete, che era esattamente quello che si voleva scongiurare, cioè che l'immagine molto potente di una che Nemos mirabilmente riesce a riportare di una Firenze completamente succube di questo sistema, potesse avere un impatto visivo, emotivo, così forte. Ecco, questo è il punto. Quindi, in assenza di fatti nuovi, cioè che qualcuno dimostri che Nemos non ha mai pronunciato quelle frasi, io mi ritrovo di fronte a una campagna, una vera e propria campagna contro chiunque intenda scalfire questa unica visione del mondo, di cui tra l'altro si è resa complice ancora una volta una testata abituata a queste operazioni, cioè Art Tribune, dove scrivono tantissime persone molto in gambe, che ne sanno di arte, soprattutto di arte contemporanea, che io leggo anche volentieri. Però purtroppo quello che succede è che quando qualcuno prova a smuovere un po' le acque, a dare un'angolazione diversa, come soldatini vengono chiamati tutti a, diciamo, a sparare a zero per riportare, diciamo così, in essere l'ordine costituito. È una pratica alla quale avevamo già assistito quando venne inaugurato il macro asilo di Giorgio De Finis nell'autunno del 2018. Anche lì ci fu la chiamata a raccolta di tutto il sistema dell'arte contro qualcosa che lo stava seriamente mettendo in discussione, ma che soprattutto rischiava di avere successo, un grande successo di pubblico, come poi avvenne. Sono belli questi momenti in cui si apre lo squarcio e si vede immediatamente la reazione difensiva di qualcosa che non vuole, che non accetta minimamente alcun confronto. Potrebbe essere un altro passaggio verso qualcosa di diverso, non lo so, vedremo nei prossimi mesi. Io credo che siamo vicini a una specie di punto critico sulla questione dell'arte, in particolare del ruolo dell'arte contemporanea nel discorso pubblico, e chissà, potrebbe non essere davvero l'ultima puntata.